America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The Ukrainian government's response to peaceful protests. Josh Earnest, avete sentito uno dei portavoce della Casa Bianca e forse la dichiarazione più recente che abbiamo avuto sull'Ucraina. La crisi preoccupa l'America, preoccupa Washington, ma fino a un certo punto, perché Earnest dice, beh certo, noi siamo molto preoccupati, dovremmo fare qualche cosa. La CNN ha dato notizia di oltre 100 morti dopo le proteste scoppiate a Kiev da martedì notte. Non sono stati rispettati i diritti umani, ha detto Earnest. C'è una condanna formale da parte della Casa Bianca. Ieri è intervenuto lo stesso presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, tra l'altro ha fatto una dichiarazione congiunta con Vladimir Putin, con la Merkel, per chiedere un cessate il fuoco, per invocare la calma. E sentiamolo, Obama. I want to be very clear that as we work through these next several days. Le parole di Obama, devo dire, sono molto generiche e c'è da chiedersi, ma cosa sta facendo l'America in questa situazione? L'America che negli anni 90 ha avuto un ruolo straordinariamente attivo in tutta l'Europa dell'Est e oggi sembra essere un po' defilata. L'America che avrebbe usato appunto in quegli anni una retorica minacciosa contro un regime che soffoca il diritto della popolazione ucraina di legarsi all'Occidente, questa America oggi tace, perché di fatto, rendiamocene conto, non può fare molto di più, può farlo sul piano retorico. Ecco, Barack Obama ha auspicato il dialogo, ha condannato le violenze, i morti per strada, ha chiesto che i diritti di tutti siano rispettati, ha persino sospeso i visti a una ventina di membri del governo ucraino, ma piccole cose, diciamolo, sono piccole cose davanti alla gravità della situazione a Kiev, e sono proprio queste piccole cose che ci aiutano a capire perché l'America di Obama e l'America dello stesso congresso repubblicano, che anni fa sarebbe stato molto più attivo, ricordiamolo, la Camera dei deputati è controllata dai repubblicani ed è quella che ha più la leva del potere, e beh, anche loro non fanno granché, e dobbiamo chiederci perché. Per Putin e per la Russia il controllo assoluto dell'Ucraina è una questione vitale sul piano strategico. La Russia non può accettare che l'Ucraina vada a far parte della comunità dell'Europa occidentale, e mentre per Barack Obama e per l'America stanca, devo dire, stanca di imbarcarsi in avventure all'estero in questo anno 2014, l'Ucraina è un problema distante che riguarda soprattutto gli alleati europei. E a Washington oltretutto c'è insoddisfazione perché si dice che la rivoluzione arancione, come molte altre rivoluzioni, non ha prodotto i frutti voluti, c'è disappunto per la mancanza di riforme, ma c'è anche la consapevolezza di poter fare molto poco in questo momento storico, e devo dire questo c'è nonostante il colore di quella frase carpita Victoria Nuland, sottosegretario al Dipartimento di Stato responsabile per gli affari europei, quando disse F, la parola quattro lettere, F the European, quando si parlava di scegliere fra la possibile partecipazione al nuovo governo di Arseni Yatsenyuk o di Vitali Klitschko. L'America voleva Yatsenyuk, l'Europa voleva includere anche Klitschko, e da lì questa volgarità registrata da un microfono indiscreto. Ma ci sono altre questioni importanti che oggi attirano l'attenzione degli Stati Uniti. Syria needs encouragement to engage. Ecco, vi dicevo, non c'è solo stanchezza nell'atteggiamento americano, ci sono nel 2014 anche interessi strategici diversi rispetto alla prima metà degli anni 90. In questo momento l'attenzione di Washington è assorbita, diciamo, al 95% da quel che succede in Siria, in Iran, nel teatro medio orientale, più in generale in Afghanistan, dove giovani soldati americani, non dimentichiamolo, continuano a morire. E dunque l'America è assorbita da delle crisi attive dove devo dire questa amministrazione ha scommesso molto, si è esposta molto, ha preso dei rischi forti sia con la Siria per il disarmo delle armi chimiche, sia con l'Iran per il disarmo degli armamenti nucleari. Abbiamo visto che i più recenti incontri tra l'altro non sono andati bene, e avendo fatto queste scelte strategiche diverse rispetto al passato, l'amministrazione Obama di fatto, come dire, ha un po' rotto anche con Israele, ha creato una situazione di freddezza con Israele, e dunque quello che doveva essere un dialogo per la pace con i palestinesi, e dunque uno dei grandi potenziali successi di politica estera di questa amministrazione, beh, a questo punto diventa molto più difficile. E dunque è lì che c'è l'attenzione dell'America e non sull'Ucraina. Vladimir Putin è il terzo elemento. Insomma, il rapporto Obama-Putin non è facile. Putin è molto aggressivo, Barack Obama non ama il confronto diretto, anzi sa che con Putin più che di confronto si tratterebbe di uno scontro, e non è nella natura del presidente americano di andare allo scontro. Oltretutto Obama nello scontro diretto con Putin è sempre uscito con le ossa rotte. Infine il ruolo dell'Europa. Ecco, è l'Europa che deve prendere in mano questa patata bollente. L'America ha delegato all'Europa la soluzione di questa crisi, da un appoggio dall'esterno, e dunque rendiamocene conto, oggi c'è un'occasione per l'Europa di raise to the occasion, come si dice in America, di confrontarsi con questa situazione, di affrontarla con durezza, con responsabilità, con decisione, e naturalmente di superarla. Declino degli Stati Uniti d'America, ma non so se sia proprio un declino, ma certamente uno degli esempi di quei momenti difficili in cui vi parlo sempre in chiusura di trasmissione. Touch me, black acres, I claim Lavazza, the real Italian espresso experience. Lavazza in the news. Lavazza ha fatto una tripletta ieri, voglio parlarvene, perché ieri è poi stato il giorno ufficiale dell'inaugurazione di questa straordinaria mostra sul futurismo italiano al Guggenheim Museum dal 1909 al 1944, tra l'altro sponsorizzata come sponsor principale proprio da Lavazza, perché Marinetti, l'autore del Manifesto del Futurismo, era soprannominato la caffeina d'Europa. Ma Lavazza ieri ha fatto una tripletta, tre notizie importanti, perché non soltanto questa sul piano della comunicazione con questa importante inaugurazione della mostra, ma perché sul piano finanziario, su quello del prodotto, ha dato due notizie non da poco. La prima, ha sottoscritto altri 100 milioni di dollari, 105 milioni di dollari nel capitale della Green Mountain Coffee, che è il partner americano di Lavazza, dove ha già una partecipazione valutata circa 1 miliardo e 300 milioni di dollari. Un'operazione molto interessante, perché Lavazza ha esercitato delle opzioni per comprare il titolo a 75-76 dollari, un titolo che ieri ha chiuso con un aumento del 4% a quota 124. Altra notizia, sempre di ieri, la Lavazza ha annunciato che a partire da settembre renderà disponibile le cartucce per il caffè lungo americano, dunque non soltanto il caffè espresso, ma un accordo perché le macchinette della Green Mountain Coffee, vi dicevo, il partner americano che ha la Keurig, una controllata che produce queste macchinette per fare il caffè, una fa l'espresso, l'altra fa il caffè lungo, a questo punto ci sarà questa cartuccia per il caffè lungo, una possibilità di grande espansione di questo gruppo molto attivo di Torino sul mercato americano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, voglio dedicare la notizia di ieri sera. Sono passato a questo gala dinner dance con premi per l'American Society of the Italian Legions of Merit, cioè è l'associazione di coloro che hanno avuto delle onorificenze italiane in America. È un evento sotto il patronato del presidente Giorgio Napolitano, e ci sono state delle medaglie. I premiati sono stati annunciati Lucio Caputo, il presidente dell'associazione, e Piero Fassino, il sindaco di Torino, l'onorevole Frank Joseph Guarini, che è stato un importante deputato americano, e il cavaliere del lavoro Giovanni Rana, presidente fondatore del Rana Group, il gruppo che fa la pasta. E dunque, pensando a questi cavalieri, come canzone del giorno ho scelto Suzanne Vega, Night's Moves. It's one side stone, one side fight, standing alone on my woman's desire. They want to know, do you love any? Love none, do you love many? Can you love one, do you love me? Do you love any? Do you love none, do you love 20? Can you love one, do you love me? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.